amore. Tutte le frequenze, quando una frequenza di ora va ad unirsi ad una frequenza più grande, crea una nuova nota, diventando lei sempre più piccola, fino a non essere più nota. Non lo vedo come il loro essere, ma il loro divenire. Queste frequenze vanno verso l'orizzonte, e il rumore di ora si mischia a un rumore più grande, lui diventa silenzio. E anche quel rumore più grande, quando va verso l'orizzonte, è come guardare stelle che muoiono in un evento gigante rivoluzionario, di cui riusciamo a godere perché non ci siamo tanto vicini. Perché sappiamo che c'è altro, il momento in cui ciò che non vedo mi riesce a catturare l'occhio, mi permette di ammirare ciò che guardo più di fissare il sole.